Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17:09, eccoci insieme per il racconto della giornata economico-finanziaria. A tutti buona serata e benvenuti a Focus Economia. Di cosa parleremo questa sera? Naturalmente la prima parte della trasmissione sarà dedicata ad un approfondimento delle notizie arrivate oggi da Francoforte, dove si è riunita la Banca Centrale Europea. Oggi in verità è stata la giornata di riunione di tutte le banche centrali, con l'unica eccezione della Federal Reserve, che comunque si è fatta sentire perché ieri sera ha diramato il Beige Book, il suo rapporto periodico. Oggi però si è riunita la Bank of England stamattina presto, poi la Banca Centrale d'Inghilterra, che ha lasciato i tassi invariati allo 0,5% nel Regno Unito, tassi fermi anche in Giappone, ma lì sono davvero a zero, c'è ben poco da intervenire ancora. Tassi fermi anche nell'Eurozona, dove Mario Draghi ha detto per il momento li manteniamo allo 0,75%, anche perché la politica ne rimane ancora estremamente accomodante e rimarrà così ancora a lungo, probabilmente anche perché l'inflazione è sotto controllo. Draghi ha ricordato che a febbraio è sotto il 2%. Non sono però solamente queste le indicazioni interessanti che ha dato il numero uno della Banca Centrale Europea. Gli sono state fatte chiaramente delle domande anche sulla situazione politica italiana, sull'impatto che il recente risultato elettorale italiano ha avuto sui mercati. Mario Draghi ha voluto un po' rassicurare l'opinione pubblica e ha detto i mercati sono meno spaventati dell'esito del voto in Italia dei politici, e se guardate agli effetti di contagio della breve fiammata di tensioni dei mercati seguita alle elezioni in Italia, sugli altri paesi è stata limitata. Questo ha detto un altro, è stato un segnale positivo. Per cui vedremo poi appunto di capire un po' meglio il senso di queste dichiarazioni. Però ha detto le riforme devono andare avanti, il capitolo delle riforme non deve essere abbandonato in Italia e molti dei processi di risanamento continueranno ad andare avanti con il pilota automatico. E poi ha detto anche una cosa molto importante, perché poi tra l'altro sarà un tema che approfondiremo nel corso della trasmissione: bisogna dare, e questo è stato un messaggio che ha rivolto a tutti i governi dell'Eurozona, priorità alla lotta alla disoccupazione giovanile. È altissima in Italia, come sapete oggi abbiamo avuto anche dei dati dalla Francia, anche qua è elevatissima, e più tardi cambieremo, approfondiremo appunto questo argomento con un collega del Sole 24 Ore, con Davide Colombo, che si occupa di questo oggi sulle quotidiane e sul sito online appunto del Sole 24 Ore, con un focus che si lega non solo alla questione della disoccupazione giovanile, ma anche alle politiche di reinserimento e di reimpiego degli over 55, che non sono solamente gli esodati, sono qualche volta anche manager che rimangono fuori dal lavoro, che non hanno ancora raggiunto l'età della pensione, e naturalmente l'età della pensione, allontanandosi sempre di più, fa rimanere scoperta dal mondo del lavoro una fascia molto ampia, e anche questo è un tema molto importante del quale il nostro paese prima o poi si dovrà occupare. Due argomenti. Poi torneremo anche ad occuparci della questione della carne equina ritrovata nei preparati per i sughi pronti e quant'altro. Come sapete, nelle ultime ore al centro dell'attenzione è finita la Star, un grande gruppo italiano che ha prontamente ritirato dal commercio questi prodotti che erano appunto contaminati da carne equina. Nessun tipo di danno alla salute, non c'è nessuna emergenza sanitaria nel nostro paese, sono una questione di danno reputazionale molto forte per queste aziende, che a loro volta sono le vittime appunto di queste situazioni, di questi frodi che si perpetrano a livello internazionale. Vi faremo sentire un po' di voci che abbiamo raccolto questa mattina a Salvadanaio, con una serie di attori appunto del sistema, che ci hanno detto, hanno voluto comunque rassicurare l'opinione pubblica dicendo guardate che per la verità la carne italiana è forse la più controllata in tutta Europa, per cui state sicuri, ma in ogni caso quello che è successo, e adesso lo hanno stimato anche Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltura. Nelle ultime ore stanno andando a picco i consumi, per esempio, dei ragù pronti, per cui chiaramente un primo effetto per l'industria c'è ed è anche molto pesante. La borsa La borsa oggi è positiva, lo era anche questa mattina, adesso Milano segna più 0,34%, un po' più sottotono rispetto ad una mattinata che era andata un po' meglio. Stanno andando bene titoli appartenenti a settori diversi, sta andando bene anche Monte dei Paschi, più 5,59%, e in questa giornata tragica per questa azienda, per questa banca, perché come sapete ieri sera si è tolto la vita il capo della comunicazione David Rossi. Una circostanza che ha abbastanza sgomentato anche la nostra redazione, devo dirvi la verità, perché molti di noi lo conoscevano. E ecco, in una giornata terribile come questa il titolo balza, non c'è nessun cinismo, questo lo vorrei dire molto chiaramente. C'è uno spread che oggi si è ristretto di nuovo in maniera abbastanza significativa, è arrivato sui 312 punti base. Probabilmente i titoli che erano stati più penalizzati per la divaricazione dello spread degli ultimi giorni, oggi per questo restringimento ne beneficiano un po' di più. Probabilmente Monte dei Paschi è tra questi, tra l'altro oggi quota 20, quasi 21 centesimi di euro, ieri aveva chiuso sotto i 19, se non mi ricordo male, 19 qualcosa, per cui davvero ai suoi minimi assoluti, e di conseguenza non può far altro anche che recuperare i peggiori in assoluto. E poi ne daremo qualche dettaglio: sono Buzzi che perde 3 punti, Ansaldo meno 3, Campari che ha diffuso i conti meno 2,81%. Sono positive anche le altre borse europee, positiva in questo momento anche Wall Street. Questi sono appunto i temi più importanti dei quali parleremo dopo anche di redditometro, perché i professionisti, commercialisti, studi legali, anche chi gestisce i patrimoni dei risparmiatori, soprattutto quelli che si preoccupano di gestire patrimoni di un certo livello, di una certa consistenza, sono per la verità un po' preoccupati dell'impatto che il redditometro avrà fra i clienti che stanno seguendo. Oggi c'è un convegno piuttosto importante a Milano e molti addetti ai lavori si stanno incontrando proprio in queste ore. Noi sentiremo poi il titolare di un grande studio di commercialisti appunto di Milano, per capire un po' come prenderanno anche di petto questa situazione, per gestire anche i timori della clientela che a questo punto tenderà a dire: o mi metto i soldi risparmiati d'ora in poi sotto il materasso perché non voglio farmi controllare, non voglio essere oggetto di monitoraggio fiscale, almeno nelle nuove modalità introdotte dal nuovo redditometro, oppure dammi qualche consiglio perché voglio vedere se c'è qualche paradiso fiscale al quale rivolgermi. E peraltro, a proposito di paradisi fiscali, poi ve ne darò qualche notizia anche nel corso delle nostre notizie in breve, tra qualche istante, c'è qualche novità da questo punto di vista che riguarda anche Beppe Grillo. C'è un'inchiesta abbastanza corposa che pubblica domani il settimanale L'Espresso. Direi che vi ho detto tutto, almeno per quello che riguarda i principali argomenti dei quali ci occuperemo questa sera. Adesso direi che possiamo anche partire con le nostre notizie in breve. E intanto ci soffiamo il naso tra una pausa ed un'altra, perché qua siamo un po' tutti anche malaticci. Allora, come è andata oggi con le materie prime? L'oro viaggia sui 1572 dollari l'oncia, il petrolio viaggia sui 91 dollari al barile. ExxonMobil, Eni e Statoil potrebbero investire 14 miliardi di dollari nell'esplorazione dei giacimenti petroliferi offshore di Rosneft. Lo ha detto il presidente della società russa, Igor Sechin, al fine di sviluppare progetti su larga scala. Questa società, la Rosneft, è impegnata con queste tre aziende che abbiamo detto, tra cui anche appunto l'italiana Eni, suoi partner strategici. Da parte loro ci saranno investimenti nell'esplorazione geologica di almeno 14 miliardi di dollari, ha detto Sechin. Il programma di esplorazione comprende la perforazione di 96 pozzi. Allora, vi ricordate l'ultimo nato in casa Boeing, il 787 Dreamliner, il nuovo aereo che non ha più avuto l'autorizzazione a volare su molti cieli perché appunto ha diversi problemi di natura tecnica? Allora, che cosa è successo oggi? Che gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver bisogno di ulteriori informazioni per convincersi che la soluzione presentata da Boeing per le batterie del 787 Dreamliner sia adeguata. Lo ha affermato il segretario americano ai trasporti Ray Lockwood in un'intervista al Wall Street Journal. Ho detto chiaramente che voglio un esame approfondito e porrò molte domande prima che la decisione da parte dell'amministrazione americana finale sia presa. Dati macroeconomici dagli Stati Uniti, ma poi vedremo anche diversi dati da altre parti del mondo, in particolar modo la Francia. Parliamo di lavoro perché le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono scese di 7.000 unità a 340.000. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 355.000 unità distribuite. La media delle richieste delle ultime 4 settimane è scesa ai minimi degli ultimi 5 anni, e questo a dispetto anche di quanto ha indicato ieri sera il Bash Book della Federal Reserve, che ha detto che invece il mercato del lavoro americano si sta riprendendo ancora con grande difficoltà. Tra l'altro non ho ricordato che potete anche scriverci i vostri messaggi, vedo che però lo state già facendo, alle 349-238-6666 per commentare con noi i fatti del giorno. Disoccupazione: il tasso in Francia per il quarto trimestre del 2012 ha superato la soglia, il tasso di disoccupazione, del 10%, attestandosi al 10,2, al massimo dalla seconda metà del 1999. È stata una statistica naturalmente diffusa dall'Istituto Nazionale Statistico, l'INSEE. Tra i giovani al di sotto dei 24 anni, la disoccupazione ha raggiunto il 25,7%, si tratta di 730.000 persone, il dato più elevato mai registrato dal 1975, quando si iniziò a monitorare il dato. In totale in Francia oggi ci sono 2.900.000 disoccupati, se li si calcola utilizzando il metodo definito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Secondo però un'indagine condotta dallo stesso Istituto di Statistica francese, sarebbero oltre 3.700.000 nel paese le persone che non lavorano e invece desidererebbero chiaramente farlo. C'è invece oggi, sentite un po', una buona indicazione che arriva dalla Grecia, dove il tasso di disoccupazione è sceso a dicembre per la prima volta in un anno. Ora non si tratta di una variazione percentuale dirompente, però è già un piccolo segnale. La disoccupazione si è attestata al 26,4% a dicembre, ripeto, dal 26,6% di novembre. A dicembre del 2011 il tasso era del 21,4%. In ogni caso, la disoccupazione greca, appunto, resta più del doppio del tasso medio dell'Eurozona, dove è all'11,9%. E salgono di oltre il 15% le prenotazioni turistiche in Grecia effettuate dalla Germania. Il dato è stato diffuso dall'ente del turismo ellenico, dalla Fiera del Turismo Internazionale di Berlino. Inaugurando la manifestazione, la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva invitato i cittadini tedeschi a fare vacanza in Grecia. Nel 2012 le presenze di turisti erano diminuite del 5,9% a 2.100.000. Una data riduzione del deficit ottenuta con un aumento delle tasse aumenta la diseguaglianza, mentre con la diminuzione dei sussidi di produzione diminuisce la disuguaglianza. È un esempio di modifica delle politiche di aggiustamento fiscale portato dal vice segretario generale dell'OCSE Piercarlo Padoan, secondo cui in questo modo l'effetto sulle finanze pubbliche è lo stesso, ma quello di redistribuzione sociale è molto diverso. Bisogna inoltre puntare su innovazione, conoscenza ed economia verde. Queste dichiarazioni sono state diffuse oggi da Bruxelles. Vi dicevo dello spread, come sta andando? Sta andando benino, perché è ritornato a scendere piano piano, ma qualcosa si vede. Oggi è tornato anche sui 310 punti base, con il rendimento delle bid decennale che è scivolato sotto quota 4,60% fino al 4,59%, naturalmente la valutazione sul mercato secondario. Andiamo ancora in Italia. Continua a calare la raccolta da parte delle compagnie di assicurazioni italiane. Nel 2012, lo ha comunicato l'IVAS, l'autorità di vigilanza sul settore assicurativo che ha preso il posto dell'ISVAP, la raccolta premi nei rami vita e danni è stata di circa 105 miliardi di euro, in calo del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel 2011 si era registrato un calo del 12,5%, quindi già venivamo da un calo piuttosto accentuato. La raccolta dei premi vita, pari a quasi 70 miliardi, è diminuita del 5,6%, mentre il portafoglio danni si è ridotto del 2,6% a 35,4 miliardi. Anche da questo si nota come le famiglie, appunto, debbano gestire dal punto di vista finanziario altre priorità, altre emergenze, e non si tutelano più neanche assicurandosi. Negli ultimi sei anni, fra il 2007 e il 2013, il fiscal drag, l'aumento del carico fiscale prodotto da progressività dell'imposta e inflazione e l'aumento delle addizionali IRPEF, hanno determinato a carico dei salari un aggravio di tasse annuo di circa 500 euro per i single, pari a più 1,9%, e di oltre 600 euro per i coniugati, più 2,3%. Questo emerge da un rapporto di IRES, CGL e CER sui salari diffuso oggi, e quindi anche da qua insomma vediamo quanto quante siano le motivazioni per cui le famiglie continuano a stringere la cinghia. Ancora un paio di notizie prima del nostro primo approfondimento di oggi. Un piano da 700 esuberi e che prevede la cessione di un ramo d'azienda che coinvolge circa 50 lavoratori, è quanto ha presentato Vodafone Italia ai sindacati nel corso di un incontro a Roma. Il piano permetterebbe all'azienda di risparmiare 80 milioni di euro nei prossimi 12-24 mesi, quindi un anno e mezzo o due. Secondo quanto si è appreso da fonti sindacali, l'azienda ha annunciato che lunedì prossimo saranno aperte le procedure di mobilità. 13 società aperte dall'autista di Beppe Grillo in Costa Rica e dalla cognata del leader del Movimento 5 Stelle per compiere investimenti e operazioni immobiliari, incluso un resort di lusso in un paese inserito nella lista nera dei paradisi fiscali. Non vi dico altro, questo è quanto scrive l'Espresso in un'anticipazione del numero che sarà in edicola domani. Ultima breve notizia, crollano di oltre il 30% gli acquisti in Italia di primi piatti pronti, surgelati e ragù coinvolti nello scandalo della carne di cavallo spacciata per manzo. Emerge da una stima della Coldiretti sugli effetti di un'emergenza che ha portato al ritiro di circa 200 diversi tipi di confezioni di prodotti alimentari in 24 diversi paesi sulla base del monitoraggio effettuato dal portale ifoodalert.net. Adesso abbiamo terminato con le notizie in breve. L'inchiesta su Beppe Grillo ve l'ho già anticipata, e domani sull'Espresso noi non diciamo altro. Se volete, chiaramente qualche sito oggi l'anticipa già. E niente, c'è poco da dire, insomma qua ormai si fanno guerra tra di loro in tutti i modi che possono. Andiamo a Francoforte, direi. Prima di tutto, buonasera al nostro corrispondente da Francoforte, Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Eccoci Alessandro, allora direi prima di farti commentare la giornata di oggi, la riunione della BCE, sentirei qualche stralcio dell'intervento della conferenza stampa di Mario Draghi. Come è noto, generalmente ci si riunisce nel primo giovedì del mese, la BCE alle 13.45 diffonde la sua decisione sui tassi di interesse invariati allo 0,75%, poi alle 14.30 inizia la conferenza stampa di Mario Draghi. Cosa ha detto Draghi? Qualche anticipazione, poi sentiremo un pezzo più approfondito. È stata evocata la possibilità di un taglio dei tassi di interesse, ma il direttivo ha fatto prevalere il no. La politica monetaria rimarrà accomodante ancora per un po', chiaramente non ha quantificato un lasso temporale Draghi, perché dice noi non lo facciamo mai, però dice quantomeno adesso l'inflazione è sotto controllo. La debolezza dell'economia si è protratta nell'eurozona, la ripresa ci sarà più avanti nel 2013. Sentiamo Draghi. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il tasso di inflazione è sceso nei mesi scorsi, come previsto, sotto il 2% a febbraio. Le previsioni a rialzo sui prezzi dovrebbero risultare contenute. Le attese circa l'inflazione per l'area euro nel medio termine restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto, vicina al 2%, e questo consentirà alla nostra politica monetaria di restare accomodante. I dati disponibili continuano a segnalare che la debolezza economica nell'area euro si è protratta anche all'inizio dell'anno. Più avanti, nel corso del 2013, l'attività economica dovrebbe gradualmente riprendersi, sostenuta dal rafforzamento della domanda globale, dal miglioramento della fiducia sui mercati e dalla nostra politica monetaria accomodante. Circa i tassi abbiamo discusso della possibilità di tagliarli, ma ha prevalso per consenso la decisione di lasciarli invariati. The prevailing consensus was to leave the rates unchanged. La Banca Centrale Europea ha poi tagliato le stime del prodotto interno lordo nell'Europa. Per l'Europa 17 il PIL è visto fra il -0,9% e il -0,1% nel 2013, l'inflazione è vista fra l'1,2% e il 2% nel 2013, sotto il 2% nel 2014. Il consolidamento fiscale deve essere parte di un pacchetto di misure strutturali che rilancino la crescita. Le domande dei giornalisti a Mario Draghi. La prima gliel'ha fatta proprio il nostro Alessandro Merli, che chiaramente era molto interessato a conoscere il pensiero del governatore sul risultato elettorale italiano, sull'impatto che questo risultato ha avuto sui mercati. Poi sì, Draghi, lo sentiremo, ha detto l'impatto è stato limitato, ma nelle prime giornate mica tanto, poi a Piazza Affari, che naturalmente ne ha risentito più di tutti. Sentiamo subito cosa ha detto Draghi su questo, poi lo commentiamo insieme ad Alessandro Merli. In markets after I mercati, dopo una certa risposta emotiva subito dopo le elezioni, hanno invertito la rotta e sono tornati più o meno a come erano prima del voto. Penso che i mercati sappiano che viviamo in sistemi democratici. Siamo 17 paesi e in ognuno ci sono almeno due tornate elettorali, quindi almeno 34 votazioni nel giro di 2-3 anni. Penso che questa sia la democrazia e ci sta molto cara. Sul risultato delle elezioni politiche italiane, i mercati sono meno impressionati rispetto ai media e ai politici. Dovete anche considerare che l'Italia, in ogni caso, prosegue il consolidamento dei conti pubblici e gli aggiustamenti strutturali dell'economia, come se ci fosse una sorta di pilota automatico. Inoltre, siamo in un contesto in cui ci sono molti segnali di un ritorno di fiducia verso i mercati finanziari nell'area euro. E se guardate agli effetti di contagio della breve fiammata di tensioni dei mercati dopo le elezioni in Italia, ebbene, il contagio sugli altri paesi è stato limitato. È un altro segnale positivo. Inoltre, esiste un programma OMT, le cui regole sono quelle che sono, quindi vedremo. Le condizioni le conosciamo, ma non è nelle nostre mani, la palla è nelle mani dei governi. Alessandro, ti ha soddisfatto questa risposta di Draghi? Visto che la domanda gliel'avevi rivolta tu. Gliel'avevo rivolta, credo che fosse inevitabile, visto che era la prima conferenza stampa, la prima uscita pubblica di Draghi dopo le elezioni italiane, e devo dire che al di là del merito di quello che ha detto, Draghi ha detto più di quello che mi aspettassi. Di solito è molto cauto nel parlare dei singoli paesi, in modo particolare dell'Italia, però stavolta io credo che abbia voluto dare un messaggio rassicurante, come avete sentito, e anche successivamente verso la fine della conferenza stampa ha ripetuto che l'Italia deve continuare le riforme strutturali, che l'aggiustamento dei conti pubblici andrà avanti, quindi insomma questa è un po' la ricetta standard della BCE, però credo che Draghi ci tenesse a dare un messaggio di rassicurazione, a dire in fondo per il momento non è successo niente, ha escluso quelle che ha definito ipotesi che per il momento hanno contatto con la realtà, come un possibile referendum per l'uscita d'Italia dall'euro, che è stato evocato in campagna elettorale, e altre cose del genere. Insomma, quindi credo che questo fosse il primo messaggio che voleva dare. L'Italia non solo insomma i risultati delle elezioni non solo non hanno avuto enormi ripercussioni, ma comunque ci sono misure che sono state prese che andranno avanti indipendentemente da chi sarà il governo. Quindi è questo quello che intendeva quando ha detto Monte dei processi di risanamento continueranno ad andare avanti con il pilota automatico? Sì, credo che sia proprio questo, nel senso che alcune delle misure che sono state prese a suo avviso comunque continueranno a dispiegare i propri effetti anche nel corso di quest'anno, dell'anno prossimo, e quindi lui ha poi detto successivamente è in questo modo che si può ottenere una compressione degli spread e quindi attraverso la riduzione, diciamo, del rischio sovrano, anche un calo dei tassi bancari, attraverso questi una ripresa del credito che poi favorisce anche la ripresa dell'economia e della creazione di posti di lavoro. Questo è un punto su cui Draghi, anche in risposta alla mia domanda, ma anche successivamente, ha molto insistito. C'è questo problema, la banca centrale ha i tassi molto bassi, ma questo non si trasmette all'economia reale, il flusso di credito è ancora bloccato, soprattutto in certi paesi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Tra l'altro, a proposito di tassi, visto che gli è stato anche chiesto se la BCE avrà intenzione di muoversi in linea con altre banche centrali che li stanno praticamente, li hanno azzerati già da tempo, per non parlare del Giappone, ma anche gli Stati Uniti, tassi fermi adesso allo 0,75%, ma mi sembra che oggi sia stato forse un po' più possibilista degli ultimi meeting rispetto ad una ulteriore riduzione, o mi sono sbagliato, ho capito male, Alessandro? Anche lì è stato abbastanza cauto, Sibillino. Però oggi c'erano queste nuove previsioni, e queste nuove previsioni dicono non solo che la crescita continua ad andare male, andrà male ancora nel complesso dell'Eurozona per il 2013, ma anche che l'inflazione sta ormai scendendo. Ricordiamoci che l'obiettivo della BCE è di avere l'inflazione sotto il 2%, ma vicino al 2%, attualmente siamo all'1,8, la previsione della BCE è dell'1,6 a fine di quest'anno, per il 2014 addirittura all'1,3, a questo punto non sarebbe da chiedersi se l'1,3 sia vicino al 2%, forse non è così vicino, anzi stiamo andando nella direzione opposta. Questa avrebbe potuto essere una buona scusa per tagliare i tassi, la BCE non lo ha fatto, la possibilità che lo faccia nei mesi prossimi c'è, come sempre loro non prendono impegni anticipati, però se non lo hanno fatto stavolta nelle condizioni dell'economia e con queste previsioni di inflazione calante, non sarei troppo fiducioso che pensino di farlo nei prossimi mesi. C'è un ascoltatore, Alessandro, che ci scrive: bisogna vedere se sono delle rassicurazioni reali quelle che ha fornito oggi Draghi, o sono delle rassicurazioni strumentali per tenere tranquilla la gente. Lo scrive Gabri, forse è Gabriele o Gabriella. Non credo che Draghi sia uno che si lasci condizionare dall'esterno. Quando c'è stata la necessità di rassicurare con molto polso la comunità internazionale, lo ha fatto con delle azioni concrete, e questo ce lo ricordiamo molto bene anche la scorsa estate. Ma credo che il compito dei banchieri centrali, no, una cosa che si sente ripetere spesso da molti di loro, sia quello intanto di preoccuparsi, cioè di essere sempre preoccupati anche quando tutti pensano che le cose stiano andando bene, e in secondo luogo però, quando emergono queste preoccupazioni, anche cercare di mantenere una linea di una certa tranquillità. Indubbiamente Draghi ha fatto un raffronto con la situazione di un anno e mezzo fa abbastanza significativo, cioè ha detto cosa sarebbe successo se un risultato analogo alle elezioni italiane fosse avvenuto un anno e mezzo fa, si sarebbe probabilmente creato un effetto di contagio nel resto dell'Eurozona, saremmo qui a parlare dell'Eurozona che salta, come si faceva alla fine del 2011, oppure a metà del 2012, nel luglio del 2012, quando poi la BCE ha lanciato il piano OMT per l'acquisto dei titoli dei paesi in difficoltà. Quindi è stato un raffronto significativo, insomma, in questo momento non sta succedendo niente del genere. Insomma, ha voluto, secondo me, un po' riportare le cose nelle loro giuste proporzioni. Ora che poi, in effetti, la BCE sia preoccupata di un eventuale vuoto politico in Italia che dovesse durare, anche su questo ci scommetterei, anche se ovviamente Draghi non ha detto ovviamente. Alessandro, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro, buona serata, a presto. Grazie. E tra l'altro, adesso, prima di concludere questo blocco, vi farei sentire un'ultima parte delle dichiarazioni di Mario Draghi di oggi, perché c'è stata un'idea che è circolata nei giorni scorsi, era stata così avanzata dalla stampa tedesca, un'idea secondo la quale la Banca Centrale Europea possa uscire dalla cosiddetta troica che verifica i programmi degli stati in salvataggio, quelli che hanno frequentato tanto per esempio la Grecia negli ultimi mesi. Questa idea è gossip, ha detto Draghi scherzando sul fatto che ogni due settimane almeno viene fuori una nuova ansia. Sentiamolo. Sulla troica partiamo da uno scherzo. Lo chiamo la fonte d'ansia della settimana. Ogni settimana o due c'è una nuova angoscia. Il mio consiglio è: quando avete notizia di un gossip da una vostra fonte, venite da noi e verificate prima di scrivere qualcosa che non esiste. La troika funziona molto bene e da anni siamo in una situazione di emergenza. Né la BCE né la Commissione europea sono nate con la troika, che invece è stata creata per affrontare la situazione di emergenza. Crediamo che la BCE abbia aggiunto valore nel settore di sua competenza, cioè il settore finanziario. E la BCE lavora molto bene, sia con l'FMI che con la Commissione europea. Eh sì, eravamo talmente in ritardo con questo blocco pubblicitario che tra poco devo andare con il successivo, però per naturalmente la giornata di borsa vi anticipo già che abbiamo una chiusura in rialzo per Milano ma anche per le altre piazze finanziarie europee. Qualcuno dice perché Mario Draghi è rassicurato sulla situazione italiana sottolineando che il risanamento dell'Italia procede anche senza un governo e che tutto sommato i mercati sono meno impressionati dei giornalisti e dei politici dei risultati elettorali. Fatto sta che stamattina la borsa andava meglio. Dopo Draghi, a Milano in particolar modo, ha affievolito il suo percorso positivo, così come le altre piazze europee. Comunque la chiusura è positiva per tutte. Con chi commentiamo la seduta di borsa stasera? Ve lo dico dopo la nostra sigletta. Inauguriamo un nuovo commentatore, Salvatore Gazziano, direttore di moneyreport.it. Salvatore, buonasera. Buonasera a tutti. Con il quale appunto commentiamo i top e i flop della giornata, come li chiama lui, in una rubrica che cura per alcune società e trasmissioni concorrenti. Detto questo, naturalmente siamo molto contenti di averti qua. Salvatore, tu ci credi intanto a questa interpretazione che ho letto su qualche agenzia secondo la quale oggi il mercato è andato bene perché Draghi ha rassicurato sulla situazione italiana? Ma francamente, vedendo anche le oscillazioni che ci sono state quest'oggi, il mercato non è che si aspettava forse molto dalle parole di Draghi e nemmeno più di tanto le ha considerate, anche se diciamo che forse in questo momento più a livello globale sicuramente quello che è forte è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che hanno toccato i nuovi massimi in questi giorni. E tra l'altro un dato che, come direbbe un tuo collega, mani sul volante da tenere presente, che se mentre gli Stati Uniti sono riusciti a ritornare ai massimi del 2007, la Germania è sotto solo del 3%, il mercato azionario tedesco, il mercato italiano è sotto del 62%. Incredibile, una forbice enorme. Che a volte ci dimentichiamo quando parliamo dei mercati, del fatto che tutti sono uguali, quando parli del fatto che è importante anche diversificare, che siamo molto dipendenti, molti risparmiatori, dalla borsa italiana, però sono dati veramente che ti fanno capire che l'Italia e non solo l'Europa, gli è venuto veramente un treno sopra e ancora non ci siamo rialzati. Allora, l'Italia ha il problema forte chiaramente della crescita economica, che ancora è un miraggio che non so quando raggiungeremo, ma quello che, come dire, io intercetto anche da quello che ci stai dicendo, Salvatore, lo possiamo girare anche a tutti coloro che sostengono che lo spread sia qualcosa di assoluta poca rilevanza. È anche a causa di questo che il mercato italiano è sotto di questa percentuale, perché con l'elevato peso che i titoli bancari hanno sul principale paniere, più quello si allarga, più i titoli bancari scendono o comunque non recuperano e non permettono a tutto il listino di recuperare, per cui alla fine un tantino di rilevanza forse quel famoso differenziale o maledetto differenziale ce l'ha. 2%, ci sono famiglie e risparmiatori che hanno visto comunque scendere di molto il patrimonio, non solo a livello teorico, come qualcuno dice che lo spread è solo una cosa teorica, ma qua parliamo anche di distruzione di fortune importanti. Però diciamo che anche quest'oggi, come hai detto, ci sono stati dei casi di borsa sicuramente positivi. Allora, eccoci di nuovo insieme per il racconto della giornata di borsa. Una giornata in cui a Siena si è consumata la tragedia della morte di David Rossi, nostro collega responsabile delle comunicazioni del gruppo. Il mercato premia il titolo con un rialzo del 7,30%. Chiuderei subito la parentesi su David Rossi, come ha chiesto anche l'azienda, come forma di rispetto nei confronti anche della sua famiglia. Mi chiedo se sia il restringimento dello spread che abbia portato a questo forte recupero dei titoli Monte dei Paschi. Salvatore, comunque ieri il titolo era sceso molto, era sui 19 centesimi, per cui davvero raso terra. Oggi forse un recupero ci stava, ma magari non in questi termini. Sì, diciamo che dopo un iniziale smarrimento anche per le notizie tragiche che hai dato in apertura, il titolo MTS è iniziato a salire anche fortemente, addirittura è stato sospeso per eccesso di rialzo. E diciamo che le notizie significative della giornata di oggi sono state Da una parte, diciamo, sono uscite delle agenzie che dicono che l'Istituto Senese, quindi Monte dei Paschi di Siena, avrebbe avanzato presso il Tribunale di Firenze una richiesta danni abbastanza importante per 1,2 miliardi nei confronti degli ex manager Mussari Ligni, ma anche delle banche Nomura e Deutsche Bank, che ricordiamo tutti sono state quelle più famosamente coinvolte nelle operazioni Alexandre Santorini. Questo, diciamo, alcuni l'hanno interpretato come una notizia possibile, positiva, che dopo aver visto tanti soldi uscire da Siena qualcosa magari comincia a rientrare, possa arrivare con magari delle transazioni, però qua stiamo parlando di illazioni. E poi dall'altra parte, diciamo che il mercato, come hai detto bene te, si è interrogato anche sul fatto che a questo punto, con un mercato di questo tipo, non ci potessero essere anche delle ricoperture abbastanza forti, perché comunque i dati ci dicono che sul Monte dei Paschi di Siena è uno dei titoli su cui c'è la maggior parte del numero di posizioni short aperte per le società principali quotate italiane, sono proprio hedge fund che sono messi pesantemente a ribasso sul titolo, quindi basta veramente anche poco per far scattare acquisti da questo punto di vista. È andato molto bene oggi anche il settore del risparmio gestito, con Azimut che guadagna il 5,72%, Banca Mediolanum più 4,58%, anche se poi Mediolanum non ci stanno ad essere identificati solo come banca del risparmio gestito, come società del risparmio gestito, però su Azimut per esempio ci sono notizie in particolare? Sì, sì, oggi Azimut anzi ha quasi festeggiato non solo in borsa, ma perché ha dato dati, ha comunicato dati al mercato molto positivi, addirittura l'utile netto ha raggiunto proprio il massimo mai realizzato e ha anche proposto un raddoppio, anzi più che un raddoppio, proprio ha proposto una cedola del dividendo superiore al raddoppio, perché di 0,55 euro contro 0,25 distribuiti lo scorso anno, con ricavi in forte crescita ma anche un utile praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno. C'è da dire che è un settore che seguo con grande attenzione, quello delle società specializzate nel risparmio gestito e nell'asset management, che sono quelle che in realtà sono quelle che hanno più tratto beneficio della ripresa di borsa, è un tema su cui con grande attenzione abbiamo posto l'attenzione all'interno anche dei nostri portafogli, perché il settore bancario avrà tutti i suoi difetti e tutto, ma società di questo tipo, come hai citato bene Azimut, Banca Mediolanum piuttosto che Banca Generali, sono molto brave a intercettare masse e di risparmiatori, ma anche a guadagnare, come vediamo dai dati di Azimut e anche quelli che ha comunicato la Banca Generali, con delle cifre veramente molto importanti, come crescita del patrimonio sotto gestione, che è arrivato quasi a 20 miliardi di euro nel caso di Azimut, e con redditi molto alti che salgono grazie a commissioni di gestione e anche commissioni di performance, che quando ci sono mercati come quelli che abbiamo visto in questi mesi, per queste società creano un effetto turbo micidiale. Salvatore, ancora un minutino di tempo per dedicarci ai peggiori titoli della giornata, scegli tu tra Geox e Telecom Italia Campari, se ci riesci a metterle anche tutte quante insieme. Campari, brutti dati, anche Geox è stata molto penalizzato per questo dal mercato. Geox è abituata, purtroppo le scarpe che respirano ultimamente hanno qualche falla, perché ogni volta che vengono comunicati i dati sono sempre più bassi delle attese, e anche in questo caso i dati che erano stati comunicati ieri sera avevano dato mostrato una forte discesa dell'utile, addirittura da 50 milioni quasi dello scorso anno a 10 milioni quest'anno, ricavi in discesa, e anche la stessa società continua a parlare di ristrutturazione, di modello da rivedere, e quindi diciamo che se da una parte il lato positivo è stato aver confermato il dividendo, al mercato queste continue discese delle previsioni non piacciono. Il caso di Campari è una società che comunque si è comportata molto bene in questi anni, sicuramente ci sono stati a livello di utile netto, di redditività, una frenata che rispetto alle attese non era così attesa, anche se diciamo quello che si evidenzia dal bilancio, dai dati che ho visto, è che oramai comunque più del 70% del fatturato di Campari è fatto fuori d'Italia, quindi questo ci fa capire anche come le società che crescono, ormai sono società che in Italia hanno una quota del fatturato sempre meno importante, peraltro anche in Italia si beve di meno. Mm-hmm. Posso darti la conferma, gli alcolici, anche i bassi alcolici, redditività e fatturato di Campari sono in discesa. Per ultimo Telecom Media, diciamo che, come aveva detto bene Cairo sulle vostre onde radio in anticipo, la patata bollente, una patata bollente. Infatti. Va bene, grazie Salvatore. Devo salutarti, ti ringrazio molto per la disponibilità che ci hai dato oggi pomeriggio. Torneremo a disturbarti senz'altro. Adesso rapidamente abbiamo ancora 3 minuti di tempo per parlare, forse 4, di mercato del lavoro in Italia, disoccupazione giovanile, ma anche quella che riguarda gli over 55. Non ho moltissimo tempo, ma ci tenevo a segnalare questo lavoro che ha fatto Davide Colombo, collega di Roma del Sole 24 Ore, naturalmente per il quotidiano, oggi pubblicato sul sito, un'analisi piuttosto approfondita del rapporto fra le giovani generazioni che non trovano lavoro e la necessità invece nel nostro paese di individuare delle serie politiche per il reimpiego di persone che invece hanno visto negli ultimi anni allontanarsi il momento della pensione. Davide Colombo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, giustamente il tuo pezzo dice: continuiamo ad enfatizzare il fatto, giustamente, che la disoccupazione in Italia tra i giovani, tra le persone che hanno i 15 e i 24 anni, sia sempre più alta. Anche in Germania, anche in Francia oggi abbiamo avuto un dato piuttosto allarmante. Rischiamo però di dimenticarci di un'altra fetta di popolazione di cui ci siamo ricordati negli ultimi mesi perché era al centro della grossa polemica sugli esodati. Ci spieghi meglio qual è la fotografia che scatti sulle Sole oggi, Davide, perché hai voluto enfatizzare il tema degli over 55 come figure per le quali bisogna assolutamente trovare delle politiche del lavoro adeguate? Ma sì, l'obiettivo di questa analisi che abbiamo pubblicato è quella di chiedere che venga accostato al dato sulla disoccupazione giovanile, che è naturalmente molto importante, anche un altro dato che secondo me è un dato segnaletico molto pesante, che è quello sulla occupazione di coloro che stanno nella classe di età tra i 55 e i 64 anni. Perché? Semplicemente perché se quel tasso di occupazione non si eleva, almeno si avvicina al tasso di occupazione dell'intera popolazione in età da lavoro, c'è una distanza di circa 15 punti percentuali attualmente, ebbene se non si alza verosimilmente nei prossimi anni quel tasso di occupazione, il rischio è la tenuta del sistema previdenziale che abbiamo. È un sistema previdenziale che prevede nel 2021, cioè tra pochissimo, tra 8-9 anni, 8-9 anni, che l'età di pensionamento di vecchiaia sarà 67 anni, noi non potremo più permetterci un ritiro, un pensionamento con un'età troppo lontana da quel termine dei 67 anni. Certo. Un solo dato per far riflettere è questo: fino a un paio d'anni fa, gli ultimi dati disponibili sono un pensionamento delle donne a 59 anni circa, medio, e degli uomini a 60-61 anni. Ora, a quell'età lì si ha un'aspettativa di vita di circa 21 anni. Quindi è chiaro che in questi termini la tenuta del sistema diventa, come dire, estremamente teorica se non si riescono ad occupare lavoratori di oltre 55 anni ancora per anni considerevoli. Davide, non ci riusciamo stasera, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma ci ritorneremo su questo tema perché ha assoluta necessità di essere approfondito, e siccome quando si pone nei termini sbagliati rischia di indispettire tutti gli ascoltatori che invece vogliono andare in pensione ritenendo giustamente di aver raggiunto tutti i requisiti contributivi ed anagrafici, allora dobbiamo argomentare meglio anche i temi quando li poniamo. Eccoci di nuovo ritrovati, ancora buonasera da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia. Fatemi fare subito una cosa al volo, altrimenti mi scordo, invece ci teniamo tra tutti gli ascoltatori che si lamentano che non c'è Sebastiano, ma state tranquilli che domani ritorna, qualche volta anche noi abbiamo bisogno di giornate di permesso per questioni personali. Volevo salutare, adesso devo ritrovare velocemente il saluto, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che ci mandano un grande saluto. Consentiteci questa licenza, anche noi vogliamo qualche volta almeno esprimere il nostro saluto appunto a chi ci saluta a sua volta con tanta gentilezza. Sono delle fedeli ascoltatrici e quindi le ringraziamo moltissimo, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccontare appunto di altre notizie della giornata. Volevo rifarvi un po' un punto sulla situazione dello scandalo della carne di cavallo venduta come bovina, che ha portato nelle ultime ore qualche grattacapo alla Star. Questa mattina noi ne abbiamo parlato a Salvadanaio, io vi farò sentire adesso che cosa ne pensano alcuni degli interlocutori che abbiamo sentito. Poi parleremo anche di un altro tema che vi indispettisce non poco, che è quello del redditometro, perché adesso tutti i professionisti, commercialisti, legali, fiscalisti, si stanno chiedendo se a breve questa nuova modalità di accertamento delle nostre abitudini di spesa in rapporto chiaramente al reddito percepito avrà il suo effetto anche sull'accumulo dei risparmi delle persone. Se addirittura qualcuno si chiede, sta generando panico, l'abbiamo visto noi anche nelle puntate di Salvadanaio che abbiamo fatto, forse non proprio panico ma molto molto disappunto lo crea. Poi ricorderemo anche che cosa è successo a Napoli, dove un giudice lo ha dichiarato illegale. Adesso invece andiamo allo scandalo, alla questione della carne di cavallo. Eh sì, mi hanno colto, io pensavo che cambiassimo musica, Pietro, ma la musica ci piace anche questa e ce la teniamo. Allora, lo scandalo europeo della carne di cavallo venduta come bovina. Ricorderete, ne abbiamo parlato anche stamattina, è partita in Inghilterra questa faccenda all'inizio di febbraio, ha portato alla ribalta il tema della sicurezza alimentare e della consapevolezza dei consumatori in relazione alle proprie scelte di acquisto, e si sono chiaramente accesi i riflettori su molti prodotti di diverse marche e si è rivelata anche la grande complessità della catena di produzione in Europa. L'ultima a finire nel tritacarne, è proprio il caso di dirlo, dell'opinione pubblica appunto è stato il marchio Star, che ha dovuto ritirare dal commercio molti sughi già pronti, molti di quei prodotti tipici appunto di questa grande marca, che per la verità non erano ancora in commercio ma è stato appurato appunto contenessero carne di cavallo, non che sia dannosa per la salute, lo sapete bene, il tema è che questa presenza sia identificata chiaramente in etichetta, questione che non c'è perché neanche loro stessi che distribuiscono questi prodotti sanno appunto che nel ragù c'è anche questa componente. Allora, questa mattina, intervenendo a Salvadanaio, il dottor François Tomei, direttore di Assocarni, ha voluto sottolineare al nostro microfono il danno che lo scandalo sta provocando al settore, precisando la differenza tra le vere e proprie truffe e le eventuali, come definisce lui, contaminazioni occidentali. Sentiamolo. Siamo danneggiati, questo perché c'è forse un difetto di informazione che possa adeguatamente distinguere la truffa che c'è stata e che deve naturalmente essere sanzionata adeguatamente dalle contaminazioni accidentali che noi ritroviamo appunto nel sugo Star piuttosto che nel raviolo, cioè sono due cose completamente diverse. In Inghilterra noi abbiamo assistito ad una vera e propria truffa che ha riguardato appunto una triangolazione di carne, quindi una fornitura di carni equine che poi è stata diciamo etichettata come bovina e poi fornita alla Findus, e quindi c'è una truffa. In quel caso le autorità di controllo hanno dimostrato che abbiamo un sistema di rintracciabilità molto efficiente, perché nel giro di 48 ore è stato possibile individuare tutti gli autori di questa truffa. Quando la direttrice generale della sanità veterinaria europea dice abbiamo il sistema più efficiente del mondo, è vero, è vero. Non va confuso una truffa che va sanzionata dalla contaminazione. Per Domenico Mastrogiovanni, invece, del Dipartimento Economico della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, i difetti nell'etichettatura dei prodotti si creano quando dalla produzione agricola si passa al trasformato industriale. Sentiamolo. Dire che c'è una componente che dovrebbe essere qualcos'altro è una frode nei confronti del consumatore che acquista. E ne va della credibilità del settore, della fidelizzazione del consumatore per chi produce questi alimenti. Però noi dobbiamo partire dal fatto che noi siamo il paese, come Italia, delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche, dove c'è un disciplinare di produzione, ci sono dei controlli, si arriva anche alla certificazione, che poi ha un risvolto nell'etichettatura del prodotto, sia esso un vino o un altro prodotto. Cosa diversa invece quando noi andiamo nella gamma del trasformato, cioè quando la parte che è di tipo, diciamo, industriale si scollega dalla parte agricola e quindi le etichette sono molto ma molto generiche e si fa fatica a far capire all'Europa che noi invece dobbiamo arrivare verso una capacità di indicare la provenienza e la tracciabilità del prodotto che è finito in quella confezione, che viene a contatto col consumatore, che dovrebbe avere la possibilità di trovare una specie di carta d'identità del prodotto che viene, diciamo, consumato. Quando si va nel trasformato, se si scollega la parte industriale alla parte agricola, ci sono queste conseguenze, per cui ci sono delle proprio dichiarazioni false, delle frodi nei confronti dei consumatori, perché si dice una cosa che non c'è. Tra l'altro, proprio oggi la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha quantificato l'effetto domino sui consumi che si è verificato dallo scoppio praticamente anche di questa faccenda. La febbre da cavallo, così l'ha chiamata la CIA, ha contagiato l'Italia con un effetto domino sui consumi che coinvolge il segmento carni, surgelati e piatti pronti. Le ripercussioni sugli acquisti praticamente rappresenta con il 45% dei cittadini che evita di comprare il cibo contaminato per un certo periodo di tempo. Appunto, le ripercussioni cominciano ad allargarsi e si stanno creando i primi contraccolpi pesanti sul mercato, per cui queste sono anche le cifre che l'industria paga. Riccardo Negrini, direttore tecnico di AIA, l'Associazione Italiana Allevatori, ha descritto sempre ai nostri microfoni stamattina a Salvo Adanaio il sistema di controllo capillare che garantisce il consumatore, che coinvolge la stragrande maggioranza degli allevamenti italiani. Noi ci occupiamo, siamo parte integrante di tutto quel sistema produttivo e di controllo che garantisce il nostro consumatore da una parte, ma il nostro allevatore dall'altra, di così produrre nel rispetto di tutte le norme da una parte, nel miglior rapporto con i nostri animali, quindi con nel miglior rispetto del benessere e con la salvaguardia dell'ambiente. L'anno scorso sono state spese oltre 250.000 giornate controllo, vuol dire che i nostri controllori esperti visitano tutte le aziende iscritte, si parla di quasi 40.000 aziende iscritte, cioè pari a quasi l'80% del prodotto di latte italiano, il 74% degli animali macellati in Italia. Insomma, un controllo capillare, regolare, continuativo, con visite nelle nostre aziende, proprio a garanzia che un prodotto in Italia sia certificato nazionale e arrivi sulla tavola del consumatore con tutte quelle garanzie di cui il consumatore ha diritto. Benissimo, abbiamo rifatto un punto della situazione sulla questione della carne equina ritrovata in alcuni prodotti anche italiani. Il nostro obiettivo è anche rassicurare la comunità dei consumatori italiani, che poi naturalmente sono necessariamente anche condizionati da quello che accade, in attesa di capire bene qual è la verità in tutta questa situazione. Continuiamo a consumare italiano e così io direi che siamo davvero sicuri di tutto. Eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, giovedì 14 marzo si terrà al Ministero dello Sviluppo Economico, convocato dal governo con il board europeo della Bridgestone, un incontro con i vertici europei, appunto, di questa grande azienda, con il board europeo della Bridgestone. Ne dà notizia al Ministero, aggiungendo che vi prenderanno parte anche rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Regione Puglia, del Comune di Bari e delle organizzazioni sindacali. Al centro della riunione c'è chiaramente l'analisi della situazione che si verrebbe a creare con la decisione della multinazionale di prevedere entro il primo semestre dell'anno prossimo la chiusura dello stabilimento di Modugno. Un altro colpo pesantissimo sarebbe per l'economia pugliese. La decisione della Bridgestone di chiudere questo stabilimento è per il governo grave e allo Stato immotivata, lo ha detto il ministro, a questo punto uscente, dello sviluppo economico, Corrado Passera, alla casa giapponese, sottolineando che la Bridgestone avrebbe dovuto discutere preventivamente col governo e gli altri livelli istituzionali per l'individuazione di soluzioni alternative. Intanto adesso andiamo a questo incontro del 14 marzo e vedremo se questa chiusura potrà essere scongiurata. Adesso invece andiamo a parlare appunto del redditometro. Perché ne parliamo? Intanto perché è un tema che, come lo mettiamo, mette sempre sugli attenti tutti i nostri ascoltatori, anche se cerchiamo di spiegarlo con tutte le dovute cautele, le rassicurazioni possibili. indispettisce gli ascoltatori. Io utilizzo molto spesso questo termine, ma ne ho avuto la forte sensazione soprattutto una decina di giorni fa, mentre forse nelle settimane passate, prima che questo entrasse a regime nella nuova formulazione, gli ascoltatori erano un po' tutto sommato un po' critici ma più tranquilli. Quando si sono, come dire, irritati di più? Quando è successo che a Napoli c'è stata una sentenza della sezione di Pozzuoli del Tribunale Partenopeo che ha stabilito, c'è stato un giudice che ha accolto il ricorso di un pensionato che lamentava il fatto che attraverso il monitoraggio delle spese che si possono attraverso il monitoraggio delle spese, appunto, che si fa attraverso il redditometro, si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino. Allora il giudice ha accolto questo ricorso e ha detto: questo redditometro non è legittimo, sacrifica la sfera privata delle persone, viola la privacy, per cui su questo contribuente l'Agenzia delle Entrate non lo deve applicare. Qualora avesse già avanzato, attivato una iniziativa di controllo dei dati personali di questa persona, la deve interrompere immediatamente. Non vi posso dire che cosa è successo quel giorno. Detto questo, Alessandro Dragonetti, partner dello studio Bernoni Grant Thornton di Milano, buonasera dottor Dragonetti e benvenuto a Focus Economia. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei conosceva questa situazione di Napoli, ne aveva letto i giorni scorsi sui giornali? Sì, l'abbiamo letta, ci siamo confrontati anche in studio e sicuramente è una posizione molto interessante e anche, diciamo, comprensibile. Mm-hmm. Allora, praticamente forse sarà anche un tema del quale avete discusso voi oggi a Milano, dove avete tenuto insieme ad una grande società di investimento internazionale del tema fiscalità, impresa e finanza, le nuove sfide per imprenditori e risparmiatori, con il patrocinio dell'AIDAF, l'Associazione Italiana delle Aziende Familiari. Perché avete ritenuto di dovervi confrontare su questo tema? Perché avete voluto focalizzare l'attenzione sulla questione del redditometro? Temete che ci sarà un grosso impatto anche nella vostra operatività? Quali sono i timori più diffusi delle persone che si rivolgono a voi? Perché poi credo che vi si rivolgano anche persone che hanno patrimoni di una certa rilevanza, dottor Dragonetti. Sì, esatto, perché è una variabile esogena alle regole del gioco che può comportare, diciamo, degli fenomeni non graditi, e anche soltanto essere chiamato a dover rendere conto di alcune spese può rappresentare un elemento di totale disappunto per il singolo contribuente, e quindi anche alcune scelte di investimento possono essere fatte tenendo conto dell'impatto che la scelta ha sul profilo di riservatezza e quindi di visibilità dello stesso nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Quindi il redditometro è sicuramente invasivo da questo punto di vista. È il contribuente che vuole essere, diciamo, non disturbato, non dico non controllato, può scegliere di non fare certe spese per non cadere in questo sistema. Ecco, per come la mette lei, però è come se una volta che il redditometro, visto che è già partito a marzo, almeno nella nuova modalità, sono già partiti, immagino, gli incroci dei dati, dei controlli risalenti alle dichiarazioni dei redditi nel 2009, se non mi ricordo male, lei dà già per scontato che l'Agenzia delle Entrate comincerà a chiamare in maniera incontrollata a questo punto i contribuenti a giustificare le spese di quel periodo. No, direi che no, il tema è alla fonte, cioè il cliente o il contribuente che può, diciamo, deciderlo prima, in ottica di prevenzione può decidere in ottica futura, perché oggi come oggi sicuramente l'impatto nell'immediato sarà abbastanza contenuto, gli effetti li vedremo probabilmente nel tempo, no? Anche perché oggi l'amministrazione non ha ancora, secondo me, tutti gli strumenti per essere pienamente efficace e efficiente, però potendo scegliere dei comportamenti, diciamo, segnalabili o dei comportamenti invece non segnalabili, sicuramente il contribuente guarda con più buon occhio gli altri, quindi vale anche per gli acquisti, vale per le sue scelte di vita, è abbastanza normale, direi. Quindi è in un'ottica difensiva, in strategica, più che su quello che fate è fatto, non si può fare nulla, ma la scelta di investimenti, la scelta di come spendere i propri soldi sicuramente. Quindi voi, insomma, temete delle ricadute significative? Almeno su alcuni comparti delle spese dei cittadini sicuramente. Quali, per esempio? Quelli che sono a costo più alto e che hanno un'incidenza significativa, ma si vede per esempio sulle macchine, andiamo sui concessionari, andiamo a chiedere alcuni modelli di macchine, quanti ne hanno venduti quest'anno e quanti ne avrebbero venduti 2 anni prima, due anni prima la crisi c'era comunque, sentiremo sicuramente dei dati totalmente sconfortanti. Questo, perché la gente non vuole essere fermata in giro per la strada e il redditometro esaspera questa situazione. Ma qua è proprio allora solamente un problema di privacy, perché io mi chiedo, se uno spende 50 ma guadagna 100 e non ha nessuna difficoltà a dimostrare la sua situazione, intanto il fisco non lo chiamerà mai a giustificare la sua posizione, dottor Dragonetti. Per quale motivo dobbiamo enfatizzare così tanto questo pericolo di essere così controllati alla maniera dell'Unione Sovietica, come ci segnala un ascoltatore? Sono io che sempre, come al solito, sono Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure c'è davvero... Tenga presente che noi abbiamo tante persone che sono andate in pensione magari tanti anni fa, o che hanno delle aziende, che hanno fonti di reddito che non sono dichiarate perché derivano da dividendi tassati alla fonte o da patrimoni o da interessi, comunque che non transitano sul sistema dichiarativo. Queste persone possono non avere nessun piacere di essere chiamate, di dover spiegare gli affari loro. È un discorso proprio di profilo, questo quindi è il tema, perché il redditometro funziona, ma funziona laddove la persona spende quello che incassa, ma se una persona spende quello che ha, spende quello che gli arriva da altre fonti che non sono dichiarate, non perché evade, ma perché la legge così prevede, è antipatico e lo capisco perfettamente facendo gli incontri con i clienti. Non c'è una grande fiducia nell'interlocuzione con l'amministrazione da questo punto di vista. Quindi vabbè, però speriamo che insomma dopo gli errori di rigidità fatti anche nel passato, che sono costati anche la vita a tanti imprenditori che, essendosi ritenuti assediati dal fisco, hanno anche rinunciato alla propria vita, appunto speriamo che in futuro tanti errori non verranno più fatti e che gli accertamenti, almeno quelli stringenti, verranno fatti solo su chi hanno ragione appunto di meritare, solo su chi li meritano. Dottor Dragonetti, 10 secondi di tempo, non so quando avremo un nuovo governo nel nostro paese, un nuovo Parlamento, il nuovo Parlamento ce l'abbiamo naturalmente, ma un nuovo esecutivo che ci governerà. Secondo lei ci sono dei margini per fare dei correttivi? Li faranno? Non lo so, che sensazione ha? O è una nuova compagine politica disinteressata a questo argomento? Secondo me col tempo assolutamente capiranno cosa va tenuto e che cosa deve essere migliorato, sicuramente sì. Benissimo, la lascio al suo convegno, grazie, buona serata. Buonasera a lei. Focus Economia termina qui, io ringrazio Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani a tutti, buona serata, ci risentiamo domani alle 12:10 con Salva Danaio.